La zanzara di Giuseppe Cruciani. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Eccoci qui, caro Parenzo, in viaggio verso Padova. Sono le 18:34 e questa è la zanzara. Sentite un suono diverso, un'atmosfera diversa rispetto a tutte le altre radio. Diciamo la verità, caro Parenzo, diciamo la verità. È così, allegria, gioia, festa e politica. È quella stessa cosa. È politica, non c'è dubbio, è politica. Oggi non è successo niente però, lo sai, nulla. No, è successo che sono chiuso dentro il bagno dell'Eurostar. Ma perché dentro il bagno? Ma vieni fuori, che fai? Hai paura di parlare in mezzo alla gente? Hai paura di parlare in mezzo alla gente? Fatti riconoscere anche sull'Eurostar, di questa è la zanzara. Aprite. Niente, non si sente più Parenzo che è rinchiuso. Aprite. Dentro il bagno dell'Eurostar. Che è successo dentro il bagno dell'Eurostar? Ti scandalizza il fatto che siano stati scarcerati 23 fermati, Parenzo? Niente, vabbè, è andato via. Intanto oggi Pionati dice, a proposito di governo Razzi-Scilipoti, dice il nostro carissimo amico Pionati, dice al governo metterei Caleano e Pionati. Lei chi metterebbe al governo? Calearo, penso che sia una persona forte, che conosca veramente i problemi degli imprenditori, io lo valorizzerei adeguatamente. E poi Pionati. Beh, devo dire che viva la sincerità, adesso non so se scherzasse, perché Pionati spesso scherza, prende in giro anche i suoi stessi ex colleghi. È tornato Parenzo? Parenzo non è tornato dentro l'Eurostar. 800 24 00 24, questa è la zanzara. Dove andiamo? Io però sulla questione degli scontri a Roma, beh, non posso non farvi ascoltare. Lui me l'ha sconsigliato perché dice guarda che l'ordine dei giornalisti potrebbe prendersela con me e allora ti consiglio di non mandarla, però io non ce la faccio, non resisto, è più forte di me. Oscar Giannino questa mattina contro alcuni giornali che hanno esplicitamente parlato di infiltrati, numero uno assoluto come al solito. E forse questo giornalismo orientato dovrebbe piantarla, perché se no capita come ieri, che si alimenta in tutto il paese l'impressione che ci siano i poliziotti che sfasciano e incendiano le città, e poi oggi naturalmente si scopre che della stessa sequenza fotografica gli stessi giornali, sto parlando di Repubblica, dell'Espresso, del Fatto, di chi ci insegna democrazia e civiltà, hanno mentito e negato ai loro lettori, convincendoli in tutta Italia e esponendo gente come me a tantissimi insulti, convincendo che non i poliziotti ad aver sfasciato le città. Chi fa giornalismo mentre secondo me andrebbe preso a calci nel culo, visto che qua si sospendono i direttori come feltri. Bene, sospendiamoli tutti. Voglio Mauro sospeso, il direttore di Repubblica, va bene? Perché se pubblicano cose in cui sono i poliziotti a sfasciare le città, quando ci sono le fotografie che girano, il nostro mestiere di giornalista è pubblicare tutto e prima di far pensare ai nostri ascoltatori e lettori che le città vengono incendiate dai poliziotti e dai finanzieri, dovremmo controllarle bene le strisce fotografiche, perché altrimenti siamo dei criminali e io vorrei la sospensione di qualcuno di questi direttori, va bene? Io, finché non la vedrò, penso che siano dei criminali. Lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare. Parenzo, non l'hai sentito, mi sa, non l'hai sentito, Giannino. Ho sentito quest'ultimo, Giannino, sperpentoso, ma sono d'accordo a prescindere. No, io lo so, anch'io sono d'accordo a prescindere. In questo caso però si riferiva al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, e ad altri ancora. Però a questo proposito, la famosa frase di Finocchiaro sui sugli infiltrati. Chi li manda? Chi li paga? Sentite. Bisogna accertare chi sono queste persone, chi li manda, chi li paga e che cosa vogliono provocare. Scilipoti furioso oggi e ieri a Exit dappertutto, è diventato il protagonista assoluto, è un grandissimo. Abbiamo creato un mostro, adesso impazzo ovunque. Chiediamo scusa al paese, chiedo umilmente scusa, perché siamo passati dal lago Puntura Ha praticamente adesso parla di tutto. Parla, sì, cioè, di tutto, addirittura di tutto ora. Voglio farti ascoltare questa cosa. Ieri sera ad Exit, sì. Ad Exit, a un certo punto dice di Adinolfi, nostro amico Adinolfi, giornalista, certo, esponente Blocchia del Partito Democratico, fondatore di una settimanale che si chiama The Week, gli dà della palla di lardo. Lui, Scilipoti, non ci posso credere, sentiamo. Onorevole Scilipoti, la palla di lardo e mi fa parlare? Eh sì, se lei però mi parla sopra mentre io cerco di mettere ordine nelle cose, non la sentiamo, quindi la mia riflessione. Ha finito di parlare con quella palla di lardo, dice, ma scusa, Scilipoti, tu l'hai visto? L'hai visto, è esattamente fassino. Eh beh sì, non è esattamente proprio un così un filiforme, come un fuscello, dire, no? Esatto. Un fuscello, cioè è bassetto, tranchiato. Comunque anche un po' grossetto, da intellettuale, davvero moderato. Beh, adesso è quella palla di lardo. È su una cosa politica proprio. Ha salvato il paese, no? Ha salvato il paese, ha salvato l'Italia, dice di aver salvato l'Italia. Io dice di aver salvato l'Italia. Delle colpe gravissime. Però scusa, io voglio sapere se davvero si muoverà qualcosa nelle prossime ore, perché è vero, nasce il terzo polo, ma tutto è ancora molto incerto, da una persona che è reduce dal Bunga Bunga. Lo sai, Parenzo? Un reduce dal Bunga Bunga, quando è stato anche lui? Dal Paladozza. Silvio? Sì, ciao a tutti, come state? Bene. Ciao. Ma chi è spuntato qui? L'amico di Silvio? L'amico di Silvio? Antonio Cornacchione, buonasera! Ah, eccoci, grazie. Radio 24. Come andiamo? Benissimo, avete bisogno di qualcosa, Radio 24? Beh, abbiamo bisogno di un consiglio. Come può andare a finire? Lei che è così vicino a Berlusconi, ci dia qualche dritta. Cerchi un po' di prevedere cosa succederà nei prossimi mesi. Beh, quello che succederà è naturalmente molto semplice. Silvio governerà nei migliori di modi, manterrà tutte le promesse che ha fatto fino adesso, già ne ha mantenute in questi 2 anni una decina, ne manterrà altre 20, quindi prima, diciamo così, ha ridotto le tasse nei 2 anni scorsi, ha portato la spazzatura, ha risolto l'Italia, quindi continuerà così. Tanto anche a me mi ha detto Antonio, se vai a Radio 24 sì, prometti quello che vuoi, tanto che cosa volete, io ve lo do, ecco. Quindi, ho capito, volete però un ripetitore più grosso, volete delle ragazze, ve le diamo. I ripetitori ci servirebbero. Lei può dire qualcosa a Berlusconi, sì, sui ripetitori? Faccio fare una frequenza, mi faccio fare 2 o 3 frequenze, tanto sì, oppure qualche telefonino per Parenzo direttamente. Ne faccio fare una sola per la Zanzara, una frequenza dedicata alla Zanzara, Presidente. In tutta Italia, ma lei che ha questo collegamento così diretto, no? Lei che è vicino a Silvio, secondo lei come ha festeggiato? Non solo, perché guardi che Scilipoti, come si chiama? Scilipoti, era una cellula dormiente di Silvio, lui ogni tanto si sveglia, perché questo qui le ha inserite, ha visto che si è svegliato proprio male, io l'ho visto urlare per 20 minuti, poi è fantastico, la lezione l'ha imparata benissimo, adesso provo anch'io. Allora lei, caro Cruciani, come si chiama, o Crociani, lei è un radicale comunista, è sempre stato, mi lasci parlare, non mi interrompa perché la sua trasmissione che non vale nulla, i suoi ascoltatori sono servi della Repubblica e di quei giornalini dell'Espresso, quindi lei è inutile che rida, perché cosa ride, spilungone com'è, magro, non mangia nulla, mangi un po' di più, ecco, qui si può stare avanti per ore e ore. Lei dice, ha imparato alla perfezione, la cellula dormiente, però mi piace molto questo concetto della cellula dormiente, cioè, secondo lei c'era un Berlusconi dentro di lui che a un certo punto è spuntato fuori? Eh certo, ce ne sono parecchie, perché poi allora ci accusano, perché a questo punto io... Pronto? Sì. Allora, sì. Mi sono postato via. No. La RAI c'è sempre, la radio c'è sempre, Radio 24 è ancora lì. Perfetto. Sì, allora, perfetto. No, ci accusano di avere pagato questi, no, come questi deputati. Esatto, vi accusano di questo. Non è vero, noi non li abbiamo pagati, anzi abbiamo minacciato di smetterli di pagarli, quello. Cioè, ma come lei ce lo dice così, impunemente? Cioè, ma senza pudore, così. Allora, quella del CEPU, è vero o no questa storia del CEPU? Beh no, pare di no, perché lei dice che è solo vicina di casa di questi qua, è un caso di omonimia. Beh, certo, è un po' strano, però comunque. Un po' strano, io so che gli hanno promesso che casomai il figlio di Borsi avrebbe rifatto tutti gli esami al CEPU. Questo Okay. Lei dice che in fondo, cioè, le cose sono molto più semplici di quello che uno. No, le grandi strategie politiche, cioè, invece le cose sono molto più terra terra. Come il famoso Totò, Dout Deus, quella è lì. Io prometti ponti, fiumi, strade, poi vediamo cosa succede. Senta, ma lei che è sempre molto vicino a Berlusconi, lo ripetiamo per l'ennesima volta, l'amico di Silvio e tutto quanto. Ma questo. Mi scrivi i testi? Questo Pionati, che è nostro amico, come lei se lo ricorda quando faceva il famoso. È un giornalista. E poi in realtà è diventato politico. Se lo ricorda il TG1, lei no? Non se lo ricorda. Sì, me lo ricordo benissimo. L'ho inviato al Parlamento. Poi si è trovato bene, è andato direttamente al Parlamento e ha smesso di fare l'inviato. Certo. Parenzo, dove sei? Non c'è più? Vabbè, andiamo col traffico. C'è Parenzo o non c'è? O è sparito? Sparisce. È un'altra cellula dormiente, Parenzo. La cellula dormiente, Scilipoti, cellula dormiente. Questo mi era sfuggito, veramente può essere un'interpretazione. Ma secondo lei, l'amico di Silvio, sempre l'amico di Silvio, la cellula dormiente, è berlusconiano dentro oppure a un certo punto Berlusconi l'ha convinto e ha fatto la cellula dormiente per un anno, al momento giusto, zac! No, è la seconda ipotesi, cioè questi sono sempre stati così, non è che si sono, anche perché uno nasce già Silvio, diciamo, già adepto di Silvio, già nasce così, non è che quello diventa, nascono proprio così, ecco, non è che poi c'è la possibilità di cambiare. E questi sono nati così e quindi dormivano lì, se no, insomma, un infiltrato, dai. Allora Rutelli che dice che in un fuori onda di oggi, Rutelli, ha infiltrato pure lui, cellula dormiente pure lui, Rutelli. È un infiltrato, sì, è infiltrato. Come quelli lì, diciamo così, quelli che sai che hanno accusato alcuni dimostranti di essere dei finanzieri, no? Sì. L'ho sentito prima Giannino che urlava. C'ha ragione però. Non lo so se c'è ragione, io so che alcuni che picchiavano, alcuni manifestanti che picchiavano chiedevano anche la ricevuta fiscale, quindi sono smascherati. Diciamo. Rutelli, il signor Rutelli dice, mi piacerebbe molto per il terzo polo un nome simile a Forza Italia. È quasi una confessione questa qua, in un fuori onda, quasi una confessione. Ma sì, perché chiaro, l'API non è che va molto bene, l'API come nome del suo partito, Sì. Cioè, l'API non colpisce nel segno. Bisogna perché dire, poi tutti si ricordano la benzina, tutti si ricordano l'API, si ricordano sempre il benzinaio. Esatto, primo, e secondo la puntura, va bene. La zanzara, però è un partito. Poi è andato l'API, l'ha presentato mi pare da Vespa, no? Sì. Da Vespa, a me è venuto uno shock anafilattico quando l'ho sentito. E dunque gli piacerebbe Forza Italia, questo nome Forza Italia ha sempre un fascino. È rimasto libero, lui potrebbe, nessuno chissà di chi è il copyright di Forza Italia, ma sarà di Silvio sicuramente. Non può neanche dirlo lui adesso, sì, io glielo ho detto a Silvio, non puoi dirlo perché in realtà lo dicevano già prima di lui negli stadi. E poi c'è sempre stato qualcuno che un giorno ha detto Forza Italia, magari 100 anni fa. Dunque non può esistere il copyright di Forza Italia. No, non può esistere. Mi chiamo Razzi, sono nuovo, vengo da Litv. Con Scilipot ora un aiuto ti do. Sono io, Scilipoti, quello che ha salvato l'Italia da quattro mascalzoni. Sono io, quello che ha salvato l'Italia da quattro delinquenti. Sono io. E lui, Scilipoti, ancora i mascalzoni mi affrontino. E allora, prima di parlare, i mascalzoni che buttano fango dovrebbero avere il coraggio di affrontarmi direttamente dove e quando lo voglio loro per parlare e affrontarci su temi seri negli interessi del paese, non negli interessi della maglietta che uno ha. Sì. Antonio Cornacchione, che dire ancora dell'infiltrato, che dire ancora della cellula in sonno? Mi aggiunga qualcosa lei prima di chiudere. Ma devo dire che adesso, ripeto, noi cercheremo di assolvere gli impegni, e se ci sono altri aiuti, perché probabilmente ce ne saranno altri, vedrete che alla fine perché non, lui il Silvio non starà sulla graticola per tanto tempo. Ah, lei dice che è iniziata adesso un'ulteriore compravendita. Sì, secondo me si allarga la maggioranza e quindi noi andiamo avanti, cioè anche dopo Pasqua arriveremo poi alla fine del mandato, tranquillamente. Bene, grazie ad Antonio Cornacchione, in contatto sempre come amico di Silvio con il Presidente del Consiglio, e insomma ci ha rivelato una cosa, ci ha rivelato che in realtà Cornacchione, cioè Scilipoti, è una cellula in sonno. Esatto. Mario da Roma, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Mario. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Parenzo, non so se è arrivato. Parenzo, comunque, è disperso nei bagni dell'alta velocità. Nei bagni dell'alta velocità. È così, che vuole fare? E che vuol dire? Non ho capito. Vabbè, ma lasci perdere quello che fa Parenzo, faccia il suo intervento. Lei ha detto una cosa così, perché lei parla sempre... È così, nei bagni dell'alta velocità, che ne so, non riusciamo a metterci in contatto, è in treno. Non mi preoccupo più delle sue definizioni, cruciali, perché tanto ho capito perfettamente che lei parla così per sentito dire. Guardi, mi... Vabbè, d'accordo, allora mi dica... E le dico anche il perché... Mi dica il perché così. Qualche settimana fa io ho chiamato lì alla Zanzara e mi sono permesso di definire i politici manigoldi. Lei si è indignato. Adesso lei naturalmente ha chiamato. Lei naturalmente ha chiamato con un altro numero, con un altro nome. No, Mario da Roma. Mario da Roma. Qualche settimana fa che si dice. C'è un filtro di un mese. Ma lasciamo. Io lo dico. Io puoi andare a sentire chiamate. Non ci sono. Un altro numero. Va bene, benissimo. Un altro numero. Mario da Roma. Va bene, allora mi dica. Lei si è indignato in una maniera inglese. Lei si è dimostrato per quello che lei in questi giorni ha chiamato i rappresentanti del popolo che sono scesi in strada a manifestare. Va bene. Manigoldi. Allora, Mario, vuole che blocchiamo questa telefonata subito oppure vuole continuare su binari di credibilità e di bloccare? Cioè, non so, se vuole la blocco, che cosa vuol dire? Uno che definisce manigoldi politici, io dico, vabbè, guardi, si accomodi benissimo. Lei ha definito... Chiamiamo l'ambulanza. Allora, io con questa classe politica che ci sta adesso... Lei l'ha definito i manigoldi, benissimo, ha fatto il suo comizio, ha detto quello che doveva dire, adesso che cosa vuole da me? Invece. Ma adesso... Lei ha fatto il suo comizio invece qualche giorno fa, ci ha detto... Mario, io non faccio comizi, abbia pazienza, i comizi li fa lei, io non faccio nessun comizio. Allora, adesso lei deve spiegare un attimo il significato. Ma io non devo niente a nessuno, per cui lei... No, lei mi deve spiegare il significato, cioè, lei lo sa il significato, perché lei parla per sentito dire. Senta, Mario, io ho detto, quelli che tirano... Stia zitto, quelli che tirano i sassi contro le camionette dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, delle forze dell'ordine, sono dei manigoldi. Dei criminali, che ho definito i politici manigoldi. Adesso lei però... Ho capito, ma che c'entrano i politici in generale con quelli che tirano i sassi contro le camionette? Abbia pazienza. Un attimo qui in diretta il significato di manigoldi. Sì, vabbè, senta Mario, chiudete allora, questa telefonata. Non lo sa, prima di tutto, quindi parla per sentito dire da va una bene. Frase che non conosco il significato di manigoldi, va bene. Ambulanza, partita l'ambulanza. Mario, se ci dà un'indicazione di dove si trova a Roma, facciamo arrivare subito i signori che sono qui con l'ambulanza. Però l'indirizzo preciso deve essere, preciso. Come, ha capito? L'indirizzo preciso, dove si trova a Roma? Mi dia un'indicazione, un attimo così. Mi fa ridere, guarda. Io, se mi dice il suo indirizzo, gliela mando io la stata ambulanza. Venga, allora, venghino. Facciamo parlare al popolo, ma lei sarebbe rappresentante del popolo. Lei pensa di incarnare io, no. di incarnare avanti, il popolo. Cruciani. Benissimo. Andiamo Davide da Mantova. Arrivederci, Mario. Davide da Mantova. Buonasera. Sì. Buonasera. Davide. Le premesso 40 che secondi, 40 sì. secondi poi il giornale radio. Io lo dico subito. Mi sono così, un po' appassionato alla politica ascoltando la Zanzara, anche benissimo. Se ho 42 anni. La ringrazio. Vede, io faccio il commerciale e sì. Nel mio lavoro succede spesso che per distogliere l'attenzione dall'elemento principale si crea un po' di confusione tutto intorno. E dunque? E dunque la mia impressione è che visto che si è parlato costantemente di infiltrati, gli infiltrati possono venire da ogni direzione. Anche e dunque secondo lei da dove sono venuti? Secondo lei da dove sono venuti? Secondo me sono venuti da chi aveva interesse ad alleggerire l'attenzione sul fatto... E dunque chi li avrebbe mandati questi infiltrati, posto che questi infiltrati ci siano naturalmente? Potrebbe averli mandati qualche incaricato della parte di politica chi? Che è riuscito per a superare il paramento. Per esempio di chi? Diciamo che non sono in tanti quelli che hanno superato per 3 voti la fiducia. Cioè Berlusconi ha mandato gli infiltrati, questo lei vuole dire? Magari non in maniera diretta, o qualcuno che ha interesse, magari ad andare in pensione con 16.000 euro al mese. Parenzo! Ragazzi, non ditemi che c'è Parenzo e poi non c'è. Dov'è finito? È di nuovo caduto? Controllate bene le cose, altrimenti mi arrabbio questa sera. 800 24 0024. Andiamo col TG3. Scarcerati gli studenti fermati per gli scontri a Roma. Alemanno attacca i giudici. L'Associazione Nazionale Magistrati basta insulti. Indagini sul pestaggio di un giovane. Allarme di Confindustria, crescita debole, l'Italia delude e resta indietro, disoccupati raddoppiati in tre anni e andrà male anche nel 2011. Berlusconi punta ad allargare la maggioranza, nel mirino una ventina di parlamentari, la stampa internazionale attacca, ormai ha fallito. Bagnasco, all'Italia serve dialogo, l'avvenire boccia il terzo polo, Casini terrò conto del monito, Di Pietro al PD a Vendola, sposiamoci. Bondi scrive al PD, cari compagni, non sfiduciatemi, contro di me attacchi preconcetti, la replica, la mozione, non la ritiriamo. 38 indagati per la strage di Viareggio, c'è anche l'amministratore delegato delle ferrovie Moretti, accusa di omicidio colposo. La Lega contro lo spot della RAI sul valore della lingua nazionale rispetto alla Babele dei dialetti. Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto. E l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli. Sono io, Scilipoti, quello che ha salvato l'Italia da quattro mascalzoni. Sono io, quello che ha salvato l'Italia da quattro delinquenti. Sono io. E allora, prima di parlare, i mascalzoni che buttano fango dovrebbero avere il coraggio di affrontarmi direttamente dove e quando lo voglio loro per parlare e affrontarci su temi seri negli interessi del paese, non negli interessi della maglietta che uno ha. Sì. Scilipoti, gli hanno detto di abbandonare la propria professione per fare il parlamentare, l'ha abbandonata. Gli altri all'interno del mio ex partito continuano ad avere in contemporanea il lavoro e fare il parlamentare. Io ho girato l'Italia, mascalzoni, delinquenti, dovete avere il coraggio di venire direttamente a confrontarvi, vi dovreste vergognare. E beh, il protagonista numero uno, oggi Scilipoti a Un Giorno da Pecora, ieri a Exit, poi ancora Radio Popolare, prima ancora La Zanzara, e poi televisioni, radio, è diventato il protagonista della politica italiana. Ormai non ricordo nemmeno più quello che dice, l'agopuntura, la patria, ormai è tutto confuso, fatto sta che sostiene, curiosamente, di avere salvato l'Italia e soprattutto... di averla salvata di fronte all'instabilità. Lui ha letto nell'Italia dei valori. Sempre da un intervento questa mattina, Un Giorno da Pecora, dice se la prende con Repubblica, col Partito Democratico e con l'Italia dei Valori, partito a cui ha appartenuto per non so quanti anni. Il linguaggio di coloro i quali ti dicono perché sei un dissidente, perché parli un linguaggio diverso, ti butteranno fango addosso e l'hanno concordato Repubblica. E oltre Repubblica, il PD e l'Italia dei Valori, che mi avrebbero fatto nero in modo tale da non farmi riconoscere più da mia madre, questo è un atto ignobile e vergognoso. Ieri sera, a un certo punto, in aria d'amico annuncia la telefonata di Scilipoti. Eccola, arriva. Devo dire una cosa che ha a che fare strettamente con lei, perché mi dicono che abbiamo in linea, a proposito delle manovre di palazzo, di che cosa stavamo, di quello di cui stavamo parlando fin qua, un suo ex collega di partito, l'onorevole Scilipoti. Oi, oi, oi. Eccolo qua. Scilipoti, buonasera. Pronto? Sì, la sento, la sento. Avete sentito anche la voce di Pardi? A un certo punto Scilipoti se la prende proprio con Pardi. Questa tua decisione angosciata di cambiare idea non ha avuto nemmeno il minimo segno premonitore. Tu sei passato di colpo dallo stare in un partito che faceva una lotta onesta alla luce del sole contro l'anomalia italiana contro il monopolista televisivo che occupa illegittimamente il vertice del potere politico, e di colpo scopri che invece lui ha tutti i diritti e che quelli che lottano contro di lui sono dei malfattori. Scilipoti, o sei improvvisamente rinsavito ora o eri coglione prima. Ma qui c'è qualche cosa che... E poi c'è Adinolfi, palla di lardo. Onorevole Scilipoti, quella palla di lardo e mi fa parlare? Eh sì, se lei però mi parla sopra mentre io cerco di mettere ordine nelle cose, non la sentiamo, quindi la mia riflessione, la mia riflessione. Scilipoti ancora contro Adinolfi Pardi, non c'è niente da capire. Dire io in un minuto, quando lei mi dà un minuto, che cosa posso spiegare? Niente, non può spiegare niente, Scilipoti, c'è niente da spiegare, niente da capire, come diceva il cantante. O si è capito tutto, diciamo, si è capito tutto. Si è capito tutto. Perché ha la possibilità di parlare, io sto alzando. E non fai altro che dire scemezze dall'importatore. E dico, a tutto si può resistere, ma insomma, soprattutto... Ancora? Perché qui è un è interminabile, interminabile, spettacolare. Vediamo stasera cosa ci dirà. Più avanti rimanete con noi, Scilipoti, Scilipoti in collegamento più avanti. A un certo punto dice ero al bagno, sempre ieri, in uno dei tanti interventi, non so più nemmeno dove, ero al bagno. Perché tutti e tre avete votato solo alla seconda chiama? Perché per una serie di motivazioni qualcuno era fuori che stava andando, che era al bagno, qualcun altro stava scrivendo, quel non lo so che cosa facevano gli altri due colleghi. Se vuole sapere quello che facevo io, mi trovavo al bagno in quel momento. Ha risposto alla seconda chiama perché era al bagno, e vabbè, è una cosa spettacolare. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. A proposito ancora degli scontri a Roma, oltre alla Finocchiaro, a Giannino che abbiamo già sentito, alla sparata, anche se poi non è una sparata, è un ragionamento come si dice in gergo, con le palle, da parte di Giannino sulla questione degli scontri a Roma, Valentini, vice direttore di Repubblica, versus Gasparri, Mascalzone, Buffone, eccetera eccetera. Valentini non so se sia vice direttore di Repubblica, credo di no, insomma, comunque giornalista di Repubblica, sentite. Io non voglio fare polemiche, ma perfino l'onorevole Gasparri, quando era già deputato, partecipò nel 93, ho qui un ritaglio del Corriere della Sera, a una specie di assedio a Montecitorio. Guardi, non le consento di dire queste cose. Lasci perdere. Lei non può assimilare queste manifestazioni ai giovani che fecero la manifestazione. Lei è un mascalzone. No, ma senatore Gasparri, questo non glielo consento. No, la prego, senatore Gasparri. Senatore Gasparri, non glielo consento. Senatore Gasparri, non le consento di offendere gli altri ospiti. Allora mi dia la parola dopo che questo... Ma certo che le do la parola. No, la prego. La prego. Lei è un buffone. Ma che modo è questo di trascendere? Ma per favore, allora completa quello che stavi dicendo. Completa quello che stavi dicendo, Gasparri replica. Leggo il Corriere della Sera. Non offendetevi, per favore. Cioè Gasparri dice, il tuo giornale protegge questa gente solo perché ha parlato di infiltrati, magari l'avrà fatto in maniera improvvida, come dice Giannino, forse troppo presto, non lo so. Ma insomma, adesso sei un mascalzone, se lo poteva risparmiare. Gasparri ancora, Valentini versus Gasparri. Noi siamo sempre stati contro la violenza, la sinistra ha una storia di connivenza con la violenza e col terrorismo. Anche il giornale Repubblica parlava delle sedicenti brigate rosse per molti anni, non riconoscevano. Lei stia zitto, non viene da una cultura italiana. Signori, questa è televisione in bianco e nero, perché stiamo rifacendo di parte. 800 24 00 24, dove andiamo? Emanuele, provincia di Potenza, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. Senta, innanzitutto un piccolo appunto glielo posso fare? Faccia quello che vuole. Non può essere garantista quando vuole lei. Sono stati beccati questi ragazzi, questi scalmanati. Sì, oggi sono stati anche scarcerati, ma sono stati anche scarcerati. Ma a me non interessa se sono stati scarcerati. Qual è voglio il punto, dire, no? Il problema è questo, no? Questi qua sono stati beccati, sono stati scarcerati perché magari ognuno di loro avrà avuto questa linea difensiva. Non me ne sono nemmeno occupato del fatto che sono stati scarcerati, non ha capito ancora. Cioè, il punto non è quello. A me che mi interessa poi se uno c'ha, se si hanno le prove o non si hanno le prove. Non me la sto prendendo con i singoli, io stavo giudicando il fenomeno. Poi le responsabilità sono i magistrati a accertarsi le responsabilità. Sì. Certo, allora analizziamo il fenomeno dal punto di vista sociologico, diciamo, no? Ma che sociologico? Lei, va bene, usiamo altre parole. Dica, allora, Cruciani, allora facciamo un altro discorso. L'Italia è al terzo posto in Europa come pressione fiscale e al primo posto attualmente, forse al mondo, come evasione fiscale. Quindi questi due dati. Scusi, ma cosa c'entra con le manifestazioni? Ma che c'entra con le manifestazioni, con i sassi e i cerellini? Scusi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Cosa c'entra con le manifestazioni e con i sassi alla polizia? Cosa c'entra? Posso parlare, Cruciani? Mi fa parlare. Parli, ma ragioni. Allora, va bene, ragioniamo. Allora, Cruciani, ecco, ragioni. Allora, questo, se lei ancora non lo ha capito o non lo vuole capire, significa che la crisi la stanno pagando pensionati e dipendenti, mentre chi ha la possibilità di evadere... No, e mi faccia parlare, sennò poi, vabbè, parla lei, no, e allora le do Emanuele, abbia pazienza, non cominci a dire fandonie. Il punto è uno solo. Questi qua, quelli che si sono resi responsabili degli incidenti, vanno puniti sì o no? Allora, Cruciani, quelli che... Oppure sono hanno l'alibi della crisi sociale, hanno l'alibi della crisi... Me lo dica. Cruciani, allora, sia se sincero. Parlare, le lascio tutto il palcoscenico, le due ore di trasmissione. Ma non c'entra niente lui. Come vuole, Emanuele, tanto lei è sempre il solito che chiama con un numero diverso, l'ho già capito. Non è, cioè, che pensa? Che sono nato ieri? Lei pensa che sono nato ieri? Non so più cosa pensare di lei, Cruciani, veramente, perché non mi sta facendo parlare. Allora, se i costi della crisi ricadono sempre sulle stesse... Eccoci qua, questa è la Zanzara, 19.36, noi mandiamo l'ambulanza, sì, succede che mandiamo l'ambulanza, e allora 800 24 00 24, moltissimi ascoltatori in linea, e viva la censura, grande Cruciani, Gianluca da Bari, poi ancora, che stress questi maestrini, ci scrive Guido da Cremona, Cruciani fascista, ti voglio meno bene quando non lasci parlare la gente, avevo deciso di ascoltare altro stasera, ma dopo l'ambulanza... sopporto tutto, Igor da Padova, dobbiamo cambiare radio, via Cruciani da Radio 24, non puoi zittire le persone così come fai, messaggi su messaggi tutti contro di me. Stefano da Trani, buonasera. Stefano, mi sente o no? Ma questa sera che succede ai telefoni? Giancarlo da Torino, buonasera Cruciani. Sono Giancarlo da Torino. Le devo chiedere una cortesia, non ho una dialettica per parlare al telefono, però le devo chiedere una cortesia. Allora, io sono un ex, diciamo, non perché mi sono uno, mi hanno congedato. Ho fatto il servizio al carabiniere e so cosa vuol dire. Ho servito lo Stato per tanti anni. A Cuneo, lei non ha fatto il servizio a Cuneo, no? No. Io ero al nucleo radiomobile di Milano, via Vincenzo Monti. Certo, famosissimo. Allora, io le vabbè, che ci vuole dire Cruciani? Giancarlo? Cosa ci vuole dire? Ecco, le volevo dire questo. Le chiedo scusa, ma non sono abituato a parlare L'ha già telefono. Detto due volte, Giancarlo, si tranquillizzi, non succede nulla. Allora, io ripeto, ho assistito, ho fatto il servizio di carabiniere nei periodi caldi. Non so se voi vi ricordate quando un mio collega carabiniere, padre di famiglia, gli hanno spappolato la testa in piazza San Babila, questi signori che sono poverini. Sì, però Giancarlo, non è che le manifestazioni sono tutte uguali. Premetto una cosa, io sono a favore delle dimostrazioni, a favore dei diritti. Vabbè, allora dunque? Però dico, non accetto una senatrice della Repubblica Italiana che insinua che ci siano delle forze camuffate, infiltrate, che fanno casino, perché lei si dovrebbe vergognare di dire queste frasi essendo una senatrice della Repubblica. Non dire solo che Berlusconi è un corrotto, un piduista, non lei. quel signore che faceva il magistrato, perché quel signore, sappiamo che il signor Berlusconi deve difendersi da un attacco, perché non riescono a fare le gambe, le terze gambe, per buttarlo giù, e dicono di tutti i colori. Dunque, secondo lei, la Finocchiaro, per quello che ha detto, si deve vergognare per il fatto che sospetta, certo, degli infiltrati? Perché lei non sa neanche cosa vuol dire quando si indossa una divisa. Attenzione, dico una cosa, ci sono anche dei colleghi, ex colleghi, che mettiamo un velo pietoso sopra, ma la maggior parte sono delle persone che si guadagnano il pane a 1.400 euro e perdono la vita, e questi Vabbè, 23 delinquenti, come capito, ha detto lei, e io sono sì, d'accordo, certo. Viva Cruciani, e sono d'accordo, sono dei quelli che tirano i sassi contro, ecco, i carabinieri, le guardie di finanza, quelli che spaccano le vetrine, sono dei delinquenti, mascalzoni. Giusto, Giancarlo, bisogna sempre dirlo, sempre riaffermarla questa cosa qui, sempre. Sempre sono mascalzoni. Mandatemi Giannino, voglio sentire Giannino. Delinquenti, perché Giancarlo, ok, ho capito benissimo. Si senta Giannino, così gode. E forse questo giornalismo orientato dovrebbe piantarla, perché sennò capita come ieri, che si alimenta in tutto il paese l'impressione che ci siano i poliziotti che sfasciano e incendiano le città, e poi oggi naturalmente si scopre che della stessa sequenza fotografica gli stessi giornali, sto parlando di Repubblica, dell'Espresso, del Fatto, di chi ci insegna democrazia e civiltà, hanno mentito e negato ai loro lettori, convincendoli in tutta Italia e esponendo gente come me a tantissimi insulti, convincendo che erano i poliziotti ad aver sfasciato le città. Chi fa giornalismo mentendo, secondo me, andrebbe preso a calci nel culo, visto che qua si sospendono i direttori come feltri. Bene, sospendiamoli tutti. Voglio Mauro sospeso, il direttore di Repubblica, va bene? Perché se pubblicano cose in cui sono i poliziotti a sfasciare le città, quando ci sono le fotografie che girano, il nostro mestiere di giornalista è pubblicare tutto, e prima di far pensare ai nostri ascoltatori e lettori che le città vengono incendiate dai poliziotti e dai finanzieri, dovremmo controllarle bene le strisce fotografiche, perché altrimenti siamo dei criminali, e io vorrei la sospensione di qualcuno di questi direttori, va bene? Io, finché non la vedrò, penso che siano dei criminali. Giorgio dalla provincia di Roma, buonasera. Buonasera a lei, il dottor Cruciani? Dica, fino a prova contraria sono io, finché non mi accoppano, sì. La ringrazio io perché la conosco da poco, perché mi è capitato di ascoltare la sua trasmissione ieri, perché cercavo un po' di informazioni su quello che era successo alla Camera, e poi mi sono ritrovato adesso in macchina a riascoltarla, casualmente girando le stazioni. Dunque, lei ha chiamato, adesso è in collegamento qui, cosa ci vuole dire? Io le chiedo scusa, però anch'io purtroppo ho notato un atteggiamento, innanzitutto la ritengo una persona molto intelligente per le sequenze logiche, ineccepibili. Purtroppo anch'io sono una persona intelligente, me ne sono accorto nel tempo. Va bene. E come le volevo dire, purtroppo nulla questio, insomma. Da una parte può essere un dono, e da un'altra parte può essere una condanna, quando non si capisce una cosa fondamentale, che non tutti ne sono dotati in altrettanta quantità. Ma io non sono dotato di tantissime cose, si figuri. Cioè, per carità, ecco, però lei nella sua trasmissione ho tantissimi limiti, Giorgio, tanti, molti. Per carità, limiti, ognuno ha i suoi, però lei cerca un dialogo con le persone, apre la sua trasmissione. E certo, infatti sto dialogando amichevolmente con lei, come può sentire, non ho nessun tipo di pregiudizio, nessuna cosa. Io lo capisco perfettamente, questo, e la ringrazio, allora, questo per dire, magari abbiamo dei livelli abbastanza simili di intelligenza. Certo, se uno a un certo punto dice delle sciocchezze, o comunque dice delle cose talmente non so se lei ha presente ieri sera chi ha chiamato a un certo punto. Forse Parenzo se lo ricorda. Parenzo? Io sì, ne ho sentito. Io Parenzo! Ho cercato... Ma dove Parenzo è finito sto Parenzo? Niente, un'altra volta è caduto. Ma ragazzi, ma non mi potete scrivere ok Parenzo e poi cade dopo 2 secondi? Non me lo potete scrivere. Questa sera sono furibondo per questa cosa. Giorgio, ha capito cosa mi combinano? Io la seguo. Mi dica qualcosa. Mi permetto di dirle la mia. Quanti anni abbia lei. Io ne ho 43. E... Più o meno gli stessi. Ecco, io prima ero molto più intollerante di fronte alla stupidità. Anche, diciamo, non solo... Ho capito, Giorgio, ma sa la differenza? Quella, io devo condurre una trasmissione radiofonica che ha certi tempi, certe cose, non è che si possono ascolto, sento, cerco di controbattere, faccio ironia, a un certo punto basta, chiamo l'ambulanza. Ormai è questa non la voglio chiamare con lei, per carità, lei è una persona ragionevole, lei è una persona con cui si può parlare tranquillo. Io la ringrazio, però ma possono chiamare anche le persone irragionevoli, non è quello il punto, possono chiamare tutti, però poi non devono, siccome se uno vuole fare il pazzo poi non è che può pretendere che uno non mandi l'ambulanza, io mando a un certo punto mando l'ambulanza, sempre secondo il mio sempre secondo il mio insindacabile giudizio, naturalmente, perché qui c'è un solo padrone, ha capito? Sì, ma infatti io questo è chiaro, no? Qui non c'è democrazia, la democrazia non esiste. Esiste la democrazia perché accogliamo tutti, poi decido io alla fine. Guardi, la democrazia è un esperimento utopistico. No, la democrazia l'uomo. Funziona molto bene per quello che riguarda le istituzioni, per quello che riguarda la trasmissione radiofonica non esiste la democrazia e tante altre lei cose. Lei così mi aprirebbe un discorso molto più ampio. Io invece, proprio rispettando i tempi della sua trasmissione, che non posso monopolizzare, anche perché è giusto che la monopolizzi lei. Ma non è questione di monopolizzare, è questione di dettare tempi e tutto. Io decido, ho capito? Decide il sottoscritto, molto semplice. È giustissimo, la trasmissione è la tua, lo spazio. Comunque, è suo, Giorgio, dopo questa amichevole conversazione sulla tolleranza, sulla democrazia, sulla radio, di che vogliamo parlare? Beh, guardi, io penso. Di questo, lei voleva parlare di questo, no? Ma benissimo, per carità. Guardi, io le posso anche quei pochi argomenti che ho avuto modo di sentire un attimo nel traffico. Allora, un attimo, io sono un attimo solo. D'accordissimo con lei, guardi, lei ha bisogno su di. Che cosa? Su che cosa? Su che allora, cosa? Io sono. Per esempio, mi dica una cosa. Mi dica una cosa. Che chi sbaglia deve pagare. Questa è una forma di educazione che dovrebbe partire dalle famiglie, dalla scuola, dalla società e da tutto. Ma lei pensa che qualcuno pagherà per gli incidenti dell'altro giorno, al di là della questione giudiziaria di cui mi frega poco, c'è cioè il carcere, gli arresti, le scarcerazioni, sono dettagli, sono dinamiche. No, non sono dettagli, perché se sono stati scarcerati, però poi sono stati scarcerati, sa, c'è chi se la prende con i magistrati, secondo me è sbagliato dire i magistrati hanno sbagliato. Uno, per andare in carcere ci devono essere anche dei motivi seri, le prove e tutto, non, ma, insomma, al di là di questo il giudizio, al di là di questo caro ascoltatore, il problema non è chi andrà in carcere o chi non andrà in carcere, quando uno c'ha il passamontagna, quando uno ha il volto coperto, non è che sia facile mandarlo in galera, poi è complicato, cioè tu lo puoi prendere, poi ci sono gli avvocati, le prove, per cui è un discorso poco interessante chi va in galera. Però il punto è questo. Non parlo di galera, quando parlo di pagare non no, parlo ma chi di va in galera, galera il fatto che siano stati scarcerati non rileva rispetto a quello che è accaduto, ha capito? Non c'entra nulla, c'è gente che esulta, ma esulta di cosa? L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei, tu pietà non hai. L'ambulanza va da tu. Parenzo, guarda che t'ho trovato, che ti ho Eccomi. Trovato l'ambulanza di Renato Zero. Ma che meraviglia, che regalo. Sei arrivato a Firenze nel frattempo, l'ambulanza Firenze, di Renato Zero. La più grande presa per i fondelli è che sul treno ti distribuiscono una rivista dove c'è scritto internet e telefono ad alta velocità, chiama a 300 all'ora, cazzo è un'ora che provo a chiamarti, è una pazzesca. La tengo però e te la porto domani toccare... a Roma. Non mi toccare Moretti, per carità, che è il mio idolo assoluto. No, ma io Moretti lo adoro, lo abbraccio. Non mi toccare se mi Moretti, sente. Non mi toccare ma no, Moretti. No, ma Moretti non lo tocco, Nanni Moretti, ma neanche Moretti delle ferrovie. Nessuno dei due, ma mi hanno distribuito, te lo giuro, questa rivista che ti porto, che si chiama La Freccia, una rivista bellissima peraltro. Sì, no, c'è so scritto anche chi la fa, dal 12 dicembre, oggi è 16, cazzo. Internet alta velocità. No, ma che c'entra? Tele... Questo... ma che vuol dire? Quello è non hai capito niente, ma leggi meglio, leggi meglio, informati, informati. Regole, c'è scritto. Ma no, ci sono delle regole. Ho capito, caro Parenzo, allora te lo dico io cosa è successo. L'altro giorno anch'io ho preso l'alta velocità all'Eurostar. E devo dire, è stato un po' complicato perché bisognava telefonare la password, cose italiane, però insomma, questo magari non dipende nemmeno da Trenitalia. Però devo dirti che tutto il viaggio, anche nelle gallerie a Firenze, c'era la connessione, c'è poco da fare. La connessione, non il telefono, non è che ti dicono che puoi telefonare sotto le gallerie. E telefono a 300 all'ora, cazzo, non riesco a chiamare. Non lo so, però collegamento con Strasburgo, caro Parenzo, con Strasburgo. Oh, che ricordi. Sony Alfano, buonasera. Buonasera. Come sta? Che invidia. Io sono appena rientrata in Italia comunque. Ci ha fregato, non è più a Strasburgo. Perché è finita la plenaria e quindi siamo appena rientrata. È scappata subito, via, boom. Via treno. Devo dire anche molto fortunata perché sono partita da Francoforte e dopo il nostro volo che è riuscito a partire, Francoforte ha chiuso l'aeroporto per neve. È proprio una botta di culo, come si dice in gergo, così come si dice in, come dire, con un termine molto, molto sofisticato, insomma, ecco, come dire, ma siamo qui nello stile della zanzara, dunque ce lo possiamo permettere. Senta, cara signora Fano, vorrei fare sentire però agli ascoltatori quello che è accaduto ieri al Parlamento Europeo, perché lei, insomma, mi ha dato della vagliassa a Licia Ronzulli. No, non ho dato della vagliassa, le ho domandato se per caso fossero arrivate, le vai una domanda, si sente? Vabbè, ho capito, sia Alfaro, non ci prende in giro, però ho capito. Base, ci sono delle, ci sono delle regole, come dice Parenzo. Sta un po' a coglionare. Ci sta un po' coglionando, ci sono delle regole, come dice Parenzo. Adesso non voglio utilizzare. Credo che la signora Ronzulli abbia difficoltà a capire queste regole. Una delle cose, quelle che insomma al Parlamento Europeo non è consentito, in siciliano si dice abbagnare, cioè fare. Significa urlare, gridare, fare la pescivendola, ma con tutto rispetto per i pescivendoli, per carità, ma siccome fortunatamente ancora esiste, al Parlamento Europeo esiste fortunatamente il rispetto delle regole, ci è rimasta un po' male. Cioè, scusi un attimo, lei sta dando della pescivendola alla signora Ronzulli? No, non ho dato della pescivendola. Con tutto rispetto dei pescivendoli, abbia pazienza, abbiamo sentito, non è che ci sono delle regole qui. Sono queste regole, scusi. No, è un'espressione. Le spiego, è un'espressione utilizzata dal signor Parenzo. Che qui è un'espressione per dire che nella vita c'è delle regole. Se ti distribuiscono una rivista dove c'è scritto che tu puoi telefonare. Beh, adesso non ce ne frega niente di questa cosa qua. Lascia perdere Trenitalia. Stiamo parlando con Sonia Alfano di una cosa che è accaduta. C'è delle regole, quello ha detto. Lei ha dato della vagliassa, signor Ronzulli. Ma sa perché ho detto quella cosa? Ho chiesto quella cosa, io perché? Pensavo che lei mi chiedesse come mai, perché siccome per tre o quattro volte in aula, non so se avete visto tutto il video, comunque per tre o quattro volte ho fatto finta di nulla, la Ronzulli gridava ancora, io la moto ho detto stai zitta, la seconda stai zitta quando è il tuo turno parli, la terza stai zitta. Siccome ho capito che evidentemente l'italiano non è compreso bene, le buone maniere non è compreso, visto che tra le donne del PDL questo termine è ben compreso, e quindi le ho fatto questa domanda. Ho visto che ha evidentemente lo comprende anche lei, perché in effetti poi insomma... Cioè lei sta dicendo, mentre lei parlava e la Ronzulli contestava la natura del suo intervento, perché dice non si può impedire... Tra l'altro è vietato, adesso visto che ci sono... Vabbè, ma adesso al di là delle regole, adesso il Parlamento Europeo non ce ne frega niente di queste cose qui, però... No, ci deve interessare. No, vabbè, ho capito. Spegniamo la radio, se spegniamo le regole del Parlamento Europeo. Il punto è un altro. Cioè lei stava parlando, la signora Ronzulli contestava il suo intervento, giusto? Gridava, sbraitava. Ma adesso gridava, sbraitava. Io ho visto il video. No. Se lei ha visto, le vorrei dire. Che significa per lei gridare, sbraitare? Che cosa diceva? Quello che ha fatto la signora Ronzulli ha gridato come una forsennata, dicendo: ma cosa dici? Ma cosa c'entra? Beh, così con questa vocina, con questa vocina, il video, sì, adesso fra poco lo manderemo, però prima voglio chiudere il discorso con lei, così insomma le cose sono più chiare. Cioè, con questa vocina com'è che faceva la Ronzulli? L'ho già fatto. No, me lo rifaccia, fuori che è una cosa meravigliosa. Ma cosa dici? Ma cosa c'entra? Questo mica è sbraitare, però, cioè, è una cosa. No, io l'ho detto con garbo. Lei ha gridato, ma se avete visto il video, io per un attimo ho pure avuto paura che la Ronzulli si potesse sentire male, perché saltellava sul banco, sbatteva il microfono, che si è visto male. Vabbè, è una sorta di scimmia, lei ce la descrive, una sorta di cosa, una sorta di saltimbanco che stava lì furibonda, non mi pare quasi che fosse così. Era molto agitata, molto preoccupata che almeno lì a Strasburgo potessero i colleghi europei potessero sentire la verità su Berlusconi, sul corruttore, e quindi appena certe cose vengono nominate a Strasburgo, a Bruxelles, vanno in tilt. Però come mi scusi un attimo, telecomandati. Ho capito questo, cioè lei in tre minuti ha massacrato di nuovo la signora Ronzulli, ma non fa niente. Ha detto peggio della pescivendola, ignorante, che non capisce l'italiano. Chi ha tentato di massacrarmi, secondo il suo pensiero, è stata proprio la Ronzulli, perché mentre io stavo uscendo dall'aula, intanto si è attaccata al telefono per chiamare rinforzi, e sono arrivati la Matera e Silvestri. Ma come la Matera rinforza? La Matera. Guardi, si vede così, voi guardatevi il video e si vede. Cioè, rinforzi per fare cosa? Perché lei non poteva intervenire, perché ripeto ci sono delle regole, quindi non poteva intervenire. Tra l'altro lei ha usato la sua dichiarazione di voto per un altro motivo, cioè per dire no, perché io mi scusate, mi sono arrabbiata perché la fanno. Sì, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Però ha utilizzato, ognuno utilizza la propria dichiarazione di voto per quello che vuole. Non lo dica a me, lo dica a Silvestris, che ha detto che vuole, che ha chiesto al presidente del Parlamento di sanzionare. Ma chiesto Silvestri? Di chi stiamo parlando? Uno del PDL. No, la signora Matera la conosciamo, perché insomma, io e immagino. Io e Parenzo siamo, come dire, cioè, buon gustai, sì. Insomma, nel senso che. Molto bene. Che cos'è l'amore? La Ramona che entra in campo. È come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso. Noto come l'attività del governo italiano rappresenti una costante violazione della Carta dei diritti fondamentali. Basti pensare all'accordo Italia-Libia, che riesce a violare decine di articoli della Carta, o al disegno di legge Bavaglio, che voleva porre il guinzaglio alla stampa e alla giustizia. Stiamo parlando di un governo sostenuto da un Parlamento eletto in maniera antidemocratica, senza la possibilità per i cittadini di esprimere una preferenza. Un governo che ieri ha ottenuto la fiducia con i voti di parlamentari di schieramenti di opposizione, gli stessi che avevano denunciato pubblicamente di essere stati avvicinati con promesse di ricandidature, soldi, in cambio del voto. Stai zitta perché non sei al Parlamento italiano, quando è il tuo turno parli. Shut up, si sta parlando di violazione dei diritti fondamentali, silenzio. Partita sei partita. E mi trovo ricacciato, mio. La prova dell'avvenuta corruzione è nei fatti. No, presidente, per favore, vorrei finire il mio intervento. Nulla di nuovo in casa del corruttore Berlusconi, come dimostrano le sentenze definitive Mondadori e Mills. Le vaiasse sono anche al Parlamento europeo? Silenzio. Stop talking, please. This is not appropriate in the chamber of the parliament. You do not have the floor. Presidente, you do not have the floor and you may not disrupt in this way other speakers. Please respect. Miss Alfano, continue. I give you another 30 seconds. Il Parlamento europeo festeggiava la giornata contro la corruzione. Ieri il Parlamento italiano lanciava la prima giornata a favore della legalizzazione della corruzione dei deputati. Grazie. Ehi, guarda, veramente di una bassezza. Stai zitta, basta, basta, stai zitta. Do you, would you just give her... Quando è il tuo turno parli. This is the last time I'm going to tell you this up there. If you stand up again and interrupt the session, I will ask you to leave the chamber. E vabbè, insomma, questo è un riassunto. Poi ci sarà l'intervento della Ronzulli. Naturalmente, Parenzo, hai sentito cosa succede al Parlamento europeo? Noi non c'eravamo. Disappear. Era fantastico il presidente del Parlamento europeo, disappear. Signor Alfano, però anche lei, shut up. Poi Vaiassa si è sentito chiaramente, sei di una bassezza, è proprio gelida, proprio perfida. Cioè, si è rivolta la signora Ronzulli in maniera cioè, quasi mefistofelica. Poi la signora Ronzulli così dolce, non l'ho mai vista. Sì, così, insomma, la più bella parlamentare la più bella parlamentare europea. Così è stata nominata la giovane tedesca. No, non credo proprio. Se è stato così, insomma, non credo che chi abbia giudicato e giudicato. Forse cioè, non è così, nel senso che non è la più bella del Parlamento europeo. Ma io ho visto donne veramente bellissime in quel Parlamento. Cioè, lei sta tipo chi è la più bella secondo lei? Quella con l'allargamento a est, lei dice, no? La no, donna più bella, dunque, credo che sia una donna rumena. Allora i tedeschi sono impazziti, perché hanno scritto che la Ronzulli è la più bella parlamentare europea? No, hanno scritto la mamma. No, dicono, hanno sì, detto sì, no, sbaglia, no, confermo quello che dice. Vogliamo fare una scommessa? No, facciamo pure una scommessa, credo la più bella parlamentare europea, credo. No, si sbaglia, glielo dico per certo, la mamma, l'europarlamentare mamma più bella. Ah, lei dice, perché lei ha un po' questo, hanno ristretto, ma lei che ha con la Ronzulli? C'è una rivalità? Rivalità. Riequilibriamo i fatti, riportiamo i fatti alla verità. Io stavo parlando, è stata lei ad interrompermi. Sì, io certo, neanche la vedo, per me lei non esiste. Beh, non esiste, come vuol dire? No, ma guardi, io vivo la mia vita. Ho capito, è una sua collega. E allora? Ho capito. L'italianità, difendere l'italianità, il senso di appartenenza. Io... al paese. Siete ambedue dell'Italia, rappresentate l'Italia al Parlamento europeo, lei ci dice non esiste. Poi... Guardi, se io adesso le dico qualcosa, lei sicuramente vi risponderà. Guardi che ci sono tanti italiani che non meritano neanche di essere menzionati. Non è che il fatto che come italiana uno deve andarci d'accordo. Ho capito, ma lei dice non esiste. Perché dice non esiste? Perché per me è una persona alla quale non ho assolutamente stima. Non mi interessa. E perché non ho la stima? Come la considera? Una sorta di servo di, di serva di Berlusconi? Perché, come solo la considera? Perché è del PDL? No. Solo perché è del PDL? Perché non la stima? No, lei dice non è nulla, guardi, non, non esiste. Io provo molta pena, perché insomma, quello che le è accaduto in passato e per quello che lei ha fatto in passato. Io ancora ricordo, il problema di questo paese è che non c'è memoria. Cosa ricorda? Che ha fatto la signora Ronzulli? Io ricordo cos'è che ha detto la Montereale, le amnesie della Ronzulli, la Montereale cosa ha detto, cosa ci ha spiegato che faceva la Ronzulli. Diciamo che non è il genere di donna che io stimo, ecco. Ma che ha fatto? Io non me lo ricordo. Tu lo ricordi, Parenzo? Qualcuno ha già beccato una querelina per questo. Ci sono state querelle. Lei sta dicendo quella cosa che hanno scritto, che lei sarebbe stata una di quelle che distribuiva le stanze a Villa Certosa. Qual era la storia? Io ho letto, Barbara, allora la Ronzulli era stato chiesto al magistrato se era mai stata a Villa Certosa. Lei ha detto di no, poi in un secondo momento gli è stato richiesto, forse le è ritornata la memoria, ha detto sì, è vero, ci sono stata, ma con mio marito. La Montereale, Barbara Montereale, che credo sia un escort. Non è un reato andare a Villa Certosa, però. Appunto. Cioè, ma per carità, è una scelta di vita, sicuramente non è la mia scelta di vita. Vabbè, ho capito, ma che ma sia. Ma sicuramente ci sono cose molto più squalificanti che si possono fare senza che possano Vabbè, comunque al di là di questo che lei avrebbe detto di non esserci andata, è la Montereale che ha detto. Non è che la Bibbia la Montereale, cioè. No, non è la... capito. E allora chiedetelo a lei, la Montereale. Mi fa parlare. È lei che stava utilizzando una frase. Le racconto una cosa che probabilmente non avrà mai sentito. No, non l'ho mai sentito. Allora, la Montereale ha detto che la signora Ronzulli si occupava della logistica nelle camere dell'escort per Berlusconi. Quando io, l'unica volta in cui ho parlato con la Ronzulli è stato l'anno scorso, perché abbiamo fatto insieme un viaggio, ovviamente non volutamente, ma dovevamo andare per carità. Ronzulli non mi pare una cosa così drammatica. Tutte e due dall'aeroporto, dal Parlamento fino all'aeroporto di Stoccarda, e ci siamo ritrovate nella stessa auto. Lei a un certo punto ha cominciato ad attaccare il discorso, mi ha chiesto, ma tu perché sei anti-berlusconiana? Che vuol dire essere anti-berlusconiana? Ho detto, guarda, personalmente ho le mie idee politiche che sono nettamente opposte a quelle sue, e poi soprattutto credo che il suo passato, i suoi trascorsi giudiziari non possano assolutamente collimare con i miei ideali. Ma quali trascorsi giudiziari? Mica trascorsi giudiziari, signora Ronzulli. Dobbiamo parlare sempre dei trascorsi giudiziari di Berlusconi. Allora, a un certo punto io gli ho detto, ma guarda, scusami, anche tu e qualche altra ragazza, non è che ci avete fatto una bella figura quando lui ha fatto i vostri nomi alla stampa per essere candidate e la moglie vi ha definito ciarpame politico. Però lei non c'entrava in questo ciarpame politico, la signora Ronzulli. Non lo so chi c'entrava. Ho capito. Non è che... Perché lei come lo sa che non c'entrava? No, ma non mi sembra che fosse inserita. Non sembra. Io invece penso... Io penso che la signora Lario si riferisse proprio al blocco delle candidature. Ho capito, ma non era inserita da quelli che hanno fatto, che hanno frequentato il mondo dello spettacolo, che pure non è una cosa. Mi scusi. Anche io le ho chiesto, guarda che quello che è uscito fuori sui giornali, mi riferivo anche alla Montereale, gli ho detto è squalificante per te. Ma sai, io non mi vergogno di nulla, queste sono parole di Licia Ronzulli. E lei mi ha detto... Io vado ogni estate a Villa Certosa perché sono molto legata a Berlusconi, per me è come uno zio, al che io le ho detto guarda stai attenta a quello che dici perché per Noemi e Papi, per te è uno zio, stai attenta a quello che dici. Dire uno zio non mi sembra una cosa così disdicevole. E allora lei mi ha detto, dice io ci vado ogni anno, ci vado sempre, e gli ho detto scusami, e com'è sta storia che tu ti occuperesti della logistica? Sì, perché è vero, io non ho nulla da nascondere, mi ha detto come funziona. Praticamente lei ha detto che sostanzialmente, siccome quando Berlusconi va in vacanza a Villa Certosa, parole della Ronzulli queste, Berlusconi non vuole gente fra i piedi, cioè staff o altro, per cui si fida delle persone a lui più vicine, quindi la Ronzulli, parliamo di un parlamentare europeo, gli tiene l'agenda, mi ha detto lei che risponde alle telefonate, prende gli appuntamenti e se ci sono degli ospiti li riceve lei e li smista lei. E qual è il problema? No, per me è un grande problema, se per voi non è un problema. Mi scusi, abbia pazienza. E lei ci ha raccontato questa cosa e sembrava che ci dovesse rivelare che la Ronzulli era una sorta di meretrice messa là. Eravamo lì appesi e risponde alle telefonate per conto di Berlusconi e smista gli appuntamenti. E qual è il problema? Se per lei non è un problema, no, guardi, c'è delle regole, e dov'è il reato? Nell'ambito... Però signora Alfano, abbia pazienza, signora Ronzulli è una persona molto vicina al Presidente del Consiglio. ho capito, ma questo lei lo può considerare un crimine? Lei lo può considerare un crimine? Posso provare pena per lei. Ma perché prova pena per lei? Mi scusi, perché prova pena per lei? Perché se nella vita non si è riuscita a fare di meglio, evidentemente si è persa gran parte di quello che la vita può essere. Vabbè, ho capito, qui si va nel personale, ognuno ha i gusti che ha, ognuno frequenta le persone che vuole frequentare. Questo ma finale c'è, se è un amico, se il presidente è un amico, tenergli la gente, rispondere alle telefonate e ricevere gli amici della villa. No, mi pare questo è un problema politico, francamente, però poi... No, guardi, neanche a me, io vi ho detto quello che mi ha raccontato lei. No, come ho capito, ma siccome lei ha detto... No, ma sembrava la rivelazione dell'ottavo segreto di Fatima. Ma no, scusi... No. Sono due cose diverse, onorevole Alfano, sono due cose diverse. Barbara Montale ha detto che smistava il traffico delle escort. Non mi sembra che la Ronzulli gliel'abbia confermato. Abbia pazienza, sono due cose molto diverse. Certo, a me non poteva dire, ci mancherebbe altro, che sì, effettivamente smisto io, ma a vedere, a giudicare... Vabbè, noi questo ci aspettavamo, lei dice, vi racconto una cosa, lei non ci aspettavamo la confessione della Ronzulli. Abbia pazienza, invece lei ci ha detto... Da quello che entra a Villa Certosa, insomma... L'ambulanza va... La città finalmente sa che mostro sei. Beh, caro Parenzo, mi entusiasmo per questa canzone. Piango come un bambino, sono emozionato come un bambino quando sento questa canzone. Suggerita da un ascoltatore, devo dire la verità. Gli ascoltatori sono straordinari. Alcuni sì, sono un po' bizzarri, sono un po' pazzerelli, ci fanno arrabbiare, ci litighiamo, ma sono straordinari. A un certo punto, quando ho mandato l'ambulanza, stasera tu non c'eri, eri al cesso dell'Eurostar, dove eri dell'alta velocità, non riuscivi a collegarti. Moretti, faccia qualcosa per Parenzo, per il collegamento con Parenzo. Mentre tu eri là, che non riuscivi a chiamare l'Eurostar, ma cioè, a un certo punto ho mandato tre volte l'ambulanza per gli interventi degli ascoltatori. Tre volte l'ho mandata, tre volte di seguito. Tre volte di seguito. Allora, un ascoltatore bravissimo, ironico, non incazzato, questi arrabbiato. Ironico, questi ci piacciono. Cioè, ha detto, ma l'ambulanza di Renato Zero, perché non la mandate subito? Presa, subito al volo, subito presa e messa. È una cosa spettacolare. Finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. Stanno ballando tutti e cantando tutti qui al di là del vetro, caro Parenzo. Tutti stanno cantando, tutti. L'ambulanza per noi ci vuole stasera, siamo troppo carichi. Ho passato una giornata infernale io. Infernale! Ho passato una giornata infernale. Voglio invitare Scilipoti qui, l'avevo chiamato anche stasera, ma lo voglio invitare qui, in studio, a Roma. Qui in studio, Scilipoti, venga qui. Non lo facciamo mai, però domani, Parenzo, se tu sei di nuovo a Roma, Scilipoti qui a Roma, che dici? È sparito un'altra volta. Ma roba da pazzi. Che ne pensa di Scilipoti, signor Alfano? Io non ho mai nascosto la mia opinione nei confronti di Scilipoti, che tra l'altro, insomma, delle nostre zone non gode di assolutamente di stima dal punto di vista politico. In che senso, scusi? È siciliano come lei, lo sappiamo, però... No, è proprio dello stesso paese. Ah, dello stesso paese addirittura? Sì. In che senso? Non è una persona stimata? Cioè, secondo lei è stato comprato? Andiamo subito al sodo. Ma guardi, lo ha detto lui molto chiaramente. No, mi sembra di no. Adesso. Ha detto che ha fatto... sembra proprio di sì. Ma no, ha detto che ha fatto una scelta autonoma per una serie di motivi. Mm. No? Vorremmo sapere quali sono questi motivi. Vabbè, lui dice la patria, la stabilità. La patria? Uno che per 10 anni, non so da quanto, insomma... si è sempre dichiarato, perché poi ha fatti, abbiamo visto quali sono i suoi fatti, si è sempre dichiarato contro Berlusconi, ma voglio dire, io credo che non abbia grandi argomentazioni politiche, perché proprio è una persona un po' così, un po' folcloristica, un po' sui generi, l'ha fatto ridere. Io ricordo che eravamo una volta ad un incontro pubblico insieme, sì. E quando lui ha dovuto spiegare la tipologia delle sue interrogazioni, dei suoi interventi al Parlamento, lui credo che abbia per più di 10 minuti parlato e contribuito anche a far svuotare parte della sala, fino a quando non ha finito il suo intervento, parlandoci dei braccioli dell'Alitalia. Cioè, pare che lui abbia fatto o una dichiarazione o un intervento al Parlamento per parlare dei braccioli dell'Alitalia. Questa è una cosa meravigliosa. Quando è caduta questa? La voglio recuperare, signora. Guardi, lui ha fatto questo intervento, credo a... Ma in Italia, Parlamento italiano, naturalmente, sì. Eh sì, lui al Parlamento italiano. No, dico, ma in questa legislatura? Questo non glielo so dire, fortunatamente. Beh, insomma, sa, uno che uno si occupa di acupuntura, con tutto il rispetto per chi si occupa di acupuntura, ma apre una crisi con l'Italia dei Valori per la questione che l'acupuntura non è molto considerata. Cioè. Però andiamo a una questione un po' di fondo, no? Cioè, secondo lei è stata comprata proprio, comprato, cioè l'adesione di Scilipoti al governo? Guardi, io adesso credo che ci sia un problema proprio di ordine politico, nel senso che comunque lui probabilmente o ha chiesto di essere ricandidato o avrà chiesto chissà che cosa, sono tutti aspetti che... Cosa ha chiesto? I soldi, secondo me? Questo non credo che abbia chiesto dei soldi all'Italia dei Valori. No, all'Italia dei Valori, a Berlusconi. No, io le dicevo che probabilmente lui già da qualche tempo avrà avanzato richiesta di essere ricandidato, di avere conferma, di avere certezza. Ho capito. E forse non avendo avuto questa certezza, questa l'ha ottenuta da un'altra parte. Senta, però dalle sue parti, perché dice che non è una persona stimata? Qual è, cioè, cosa si dice del signor Scilipoti dalle sue parti? Ma intanto, dopo quello che lei vuole sapere, prima o dopo? No, ma insomma, come persona, non penso che ci siano stati dei cambiamenti. Beh, dopo, adesso, insomma, lui dice mi hanno minacciato. Ma guardi, queste sono tutte cose che lui dice da non so quanto, però non credo, non so se c'è mai stato riscontro, anche perché mi chiedo chi e perché dovrebbe minacciarlo. Forse chi fa la manutenzione ai braccioli dell'Alitalia. Senta, un'ultimissima cosa, poi la lascio. Bagliassa, come l'hanno tradotto al Parlamento europeo? Ah, non lo so, guardi... quando a gennaio rientro devo chiederlo, perché ci sono degli interpreti che conosco, tra l'altro sono delle persone straordinarie, devo chiederglielo questa cosa. Comunque devo dire che oggi ho ricevuto tantissimi complimenti, quindi evidentemente la cosa... molti complimenti, cioè. Sì, no, volevo fare una domanda a voi invece. Sì, Parenzo ci sei? Certo. Vabbè, la faccia a me. 300 all'ora si può telefonare? Ho capito, ma dove sei? Tra Firenze e Bologna sempre. Allora, mandiamo il traffico, poi traffico, poi la faccio fare la domanda, perché noi abbiamo le interruzioni. Faccia qualcosa, signor Alfano, lei che è una persona che ci onora della sua presenza e che viene spesso qui e che è una nostra ascoltatrice, ci apprezza e tutto. Faccia qualcosa, un appello, basta con l'interruzione alla zanzara, così almeno... No, assolutamente. Altrimenti voi come fate a vivere? Moriamo. No, cioè, no, sta dicendo come no. Io voglio che la zanzara e tutti gli altri programmi vivano. Certo. Va bene così. Dunque, va bene le interruzioni per la pubblicità. Io volevo una cosa contraria, comunque. Invece lei è più realista del re, hai capito, Parenzo? Cioè, però forse mi ha salvato, perché sennò... Se no mi rimproveravano qui dai piani alti. L'ambulanza va mentre la città. Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Voglio sapere subito cosa ci deve domandare, anche se lo deve domandare solo a me, perché Parenzo è sparito nei meandri della Firenze e Bologna. Prego. No, le volevo chiedere questo. Dopo aver visto e ascoltato il video di ieri al Parlamento, voi al mio posto cosa avreste fatto? Ma guardi, noi Vaiassa, io non lo so, magari mi piace, un giorno mi piacerebbe, ma non mi sono mai messo nei panni di uno che sta lì al Parlamento. No, dico nella situazione, cioè che uno parla e viene interrotto per tre, quattro volte, viene interrotto addirittura la persona che interrompe, viene rimproverata dal Presidente del Parlamento e la persona non ha neanche il minimo rispetto per il Presidente del Parlamento al punto da parlare sopra persino al Presidente. Vabbè, ma avrebbe fatto? Ma non lo so, ma probabilmente avrei detto voglio parlare, faccia silenzio. Io l'ho detto. Beh, l'ho però detto. Lei Vaiassa gliel'ha detto, su, è inutile. No, Vaiassa no. Ma come no? Allora io devo fare delle scuse. No, lei non si vuole scusare con la Ronzulli? Chiedo scusa alle Vaiasse. Ma... chiedo scusa alle Vaiasse, no? Sì. Ma no, ma perché? Ma che, cosa le ha fatto così grave la Ronzulli? Cosa le ha fatto? Ma lei sa che quando io sono uscita dall'aula, la Ronzulli dopo ha detto, c'era una persona accanto a lei, seduta un ragazzo, che le ha detto, valla a salutare, ma in tono ovviamente sarcastico. E la Ronzulli ha detto, io le spacco la faccia. Dopo, tarda serata, ieri sera, Silvestris, che è il deputato che è corso in aiuto della Ronzulli, ha fatto un comunicato stampa in cui ha detto che questa volta non me la faranno passare liscia. Sembrano insomma squarci di dialogo presi dal padrino, invece no, insomma. Cioè, cosa le potrebbero fare, mi scusi? A me? Guardi, credo assolutamente. Appunto, nulla. Allora lei non teme nulla, immagino. No, ha avuto paura di persone che seriamente giocano a fare del male. Però mi scusi, signor Alfano, dunque lei non ha nessuna intenzione di fare la pace con Alicia Ronzulli? proprio. Niente. No. Vede, in Italia c'è questa abitudine che se fossimo in altri momenti, in altre condizioni storiche e politiche, il political correct ci sarebbe benissimo. E invece? Ma deve finire questa storia che i deputati in aula fanno finta di ammazzarsi, poi escono dall'aula, si stringono la mano, vanno a cena insieme, scherzano anche fuori dagli studi televisivi. Finiamola, perché poi la gente non crede, crede che questo sia tutto un teatrino. Io ho litigato più volte con la signora Ronzulli, e non solo con lei del PDL, non ho la benché minima intenzione né di ritornare indietro su quello che ho detto, né tantomeno di chiarire con la signora Ronzulli. Se io la chiamo adesso? A chi? Alla signora Ronzulli? La può chiamare, io le ribadisco quello che ho detto ieri. Lei abbassa il telefono? No, no, no, io non scappo mai, ribadisco esattamente quello che ho detto ieri. Ho capito, mi mette in una situazione complicata perché... Ma infatti ha detto lei che la vuole chiamare, non io. No, nel senso che... No, lo sa, io l'avrei messo volentieri in collegamento con... Sa cos'è anche, la Ronzulli ieri ha detto, l'onorevole Alfano non lavora, si vada a guardare il suo... resoconto e poi guardi il mio, posso capire che insomma potrebbe arrossire guardando. Ma esistono questi resoconti? Oggi non ho avuto tempo, ma esistono questi resoconti stenografici? Certo che esistono, cioè, no, non i resoconti stenografici, i resoconti parlamentari, cioè il resoconto della propria attività, il numero delle presenze, il numero delle attività. Lei pensi che la scorsa settimana un sito, non mi ricordo di che nazionalità, comunque un sito straniero, ha pubblicato un link, un articolo dove c'è scritto i 10 eurodeputati più in vista, non più attivi. Sì. E lei era lì, sa perché era in vista? Perché ha portato la bambina e il bambino in aula. Beh, ha fatto un bel gesto, no? Ci mancherebbe, anch'io ho portato mia figlia in aula, ma non è che si può pensare di essere, come dire, più bravi per questo. Contano le interrogazioni che fai, gli interventi che fai in plenaria, quante risorse. E lei lavora poco, la Ronzulli lavora poco? Guardi, io non ho guardato quello che fa la Ronzulli, anzi l'ho guardato nei giorni scorsi quando allora, è uscito questo link. Niente da rimproverarle. No, non mi interessa. Dico solo che sicuramente è molto poco rispetto a quello che ho fatto io. Quindi se lei ieri ha Però lei a portare la figlia là, secondo lei è stata tutta una sceneggiata a portarla là al Parlamento Europeo oppure è un problema reale? Quello è un problema reale. No, pensavo che lei dicesse che fotografare lì apposta. No, assolutamente. Quello è un problema reale. Sono in tante le mamme che portano i propri figli. Appunto. No, quello è un problema reale, nel senso che comunque... Però molti dicono, la signora Alfano è invidiosa perché c'è stata... No, alcuni ascoltatori scrivono, è invidiosetta perché per quella cosa uscita sui giornali tedeschi. Effettivamente alcuni giornali hanno scritto è la mamma più bella d'Europa, è vero. Vorrei tranquillizzare questi ascoltatori. Io ho conosciuto il dono della maternità esattamente 14 anni fa, quando la signora Ronzulli forse ancora giocava con le bambole, e ho ben 3 figlie, quindi non posso... Ma non per questo, perché magari c'è stato quell'articolo in cui la Ronzulli è stata... nominata tra virgolette come... No, ma ci manca, ma assolutamente no, questo sarebbe veramente essere pedanti. Vabbè, stiamo scherzando, no? E poi guardi, io sono una persona, quando si parla di bambini mi si tocca veramente essere fuori il mio aspetto tenero. Credo che abbia fatto benissimo a portarla, anzi mi dispiace, la vedo spesso in aula questa bimba o questo bimbo, non credo che sia una femminuccia, immagino ogni volta che vola, insomma che sale in aereo, quante volte potrà aver dolore alle orecchie, perché come sa c'è un problema di per cui secondo lei non dovrebbe portarla così spesso al Parlamento Europeo? No, non è che non dovrebbe portarla così spesso, per carità, ripeto, anch'io ho portato mia figlia che è più grande, la più piccola ha 5 però... anni, l'ho portata, però mi rendo conto, cioè guardi che è un po' un dualismo, nel senso che comunque per una mamma, per una donna... Ma lei non ha, siccome ha utilizzato delle parole così dure, per carità, lo capisco dal punto di vista politico, è appunto una mamma che porta la figlia al Parlamento Europeo, un po' di tenerezza non le ispira la signora Ronzulli? No. Nessuna tenerezza, così, senza pietà. Perché mi deve ispirare tenerezza? Ma no, non è che neanche pietà. Io vengo attaccata, rispondo. No, beh, ho capito. Lei è attaccata, cioè l'ha interrotta perché secondo... No, vabbè, comunque adesso non voglio... Non è la prima volta, guardi che non è la prima volta che attacca il Parlamento Europeo. Quando io faccio i miei interventi, le mie dichiarazioni di voto, c'è sempre qualcuno in aula lì pronto ad ascoltare. Quindi, no, io l'avrei anche chiamata, signora Ronzulli, il problema è che è in aereo, non la posso chiamare adesso, so che lei deve andare via, vero? Sì, io ho un incontro pubblico adesso. Un incontro pubblico, vabbè. Sì. Mi dispiace molto perché volevo questa riconciliazione a tutti i costi. No, non ci sarebbe sarebbe rimasto deluso perché non c'è alcuna riconciliazione da fare. Quando la signora Ronzulli imparerà a rispettare le regole, a rispettare la libertà degli altri... Cioè è lei che dovrebbe chiedere scusa? Non credo debba chiedere scusa, ma deve chiedere scusa a se stessa, perché ha perso un'occasione per non fare una pessima figura. Poi deve chiedere scusa al Parlamento come istituzione. Guardi, io le assicuro che se qualcuno dovesse prendere la parola in aula e parlare male di o di me o di Di Pietro, lei non interromperebbe nessuno. Non interromperebbe nessuno. Ho capito. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va. Parenzo! Eccoci! Eccoci qui, che spettacolo, che spettacolo! L'Alfano, uno spettacolo inaudito, assoluto. Spettacolo assoluto. Beh, insomma, io pensavo che magari davanti alla parola Vagliassa dicesse: beh, ho esagerato. No, ancora di più. Bellissima la rivelazione che ha fatto. Ma sì, ma quella mi pare una stronzata, scusami se te lo dico. Una cosa clamorosa, no? Sì, sembrava che ci dovesse dire l'oro di Dongo, invece alla fine ha detto una cosa che, insomma, il telefonino, sono amici, cioè, sì, okay. Infatti su quello non ho capito, cioè, tutto finito. Sono arrivato a Bologna, vabbè, meno male, così abbiamo un attimo di pausa. Luigi da Roma, buonasera. Anzi no, prima attenzione, aspetta. Grazie, provincia di Teramo, poi Luigi da Roma, poi Diego da Udine. Grazie, provincia di Teramo. Dottore Le Crociate, mi sente? Sì, la sento, sì, grazie. Pronto? La sento, grazie. Ah, buonasera. Buonasera, dica. Io sono intervenuta per sostenere l'onorevole Alfano, perché io sono d'accordo con l'onorevole. Beh, scusi, come si fa a essere d'accordo con uno che dà la Vagliassa a qualcun altro, mi scusi? No, va bene, questo lo lasciamo adesso da parte. No, in generale il discorso che ha fatto l'onorevole è giusto, ci sono da rispettare delle regole al Parlamento europeo, ed è giusto che l'onorevole difende questo è il principio. Sì, però mi scusi un attimo. Signora, grazie, adesso non è che ci possiamo appendere alle regole del Parlamento europeo. Quando uno fa un intervento, un altro interrompe, a meno che non dica brutta eccetera eccetera, non insulti, poi ci può anche stare un'interruzione, non è che uno si può beccare della Vagliassa solo perché ha interrotto un discorso. Italia, sono d'accordo, ma internazionale o Europa no. Cioè lei dice in Europa uno deve far finta. Sì, però che barba, finalmente c'è vita. La signora, ma educatamente disciplinata, doveva ascoltare. Se aveva qualcosa da dire, glielo diceva. Ho capito, però scusi, del Parlamento europeo. Lei ha ragione, grazie, però al Parlamento europeo non succede mai niente. Una volta che è successa una cosa ci dobbiamo far vedere di nuovo noi italiani che facciamo le cose, siamo al teatro, non so. Ho capito, ma se d'altra parte non è che le Alfano esistono da altre parti. Io all'estero, io l'Italia la amo perché proprio non è sempre disciplinata. Però senti, quando si vuole la disciplina, ci dobbiamo tenere a quello, anche perché siamo nell'Europa, e forse anche di questo lato, rispetto e non ipocrisia, la disciplina fa parte della globalizzazione. Ok, adesso il concetto un po' fumoso, però la ringrazio molto, signora, grazie. Come sostenere, dato che lei ha detto tutto questo? No, perché da lei sostiene risposte negative, io... Certo, no, veramente ha detto che ha avuto un sacco di complimenti via SMS per quello che ha detto, per cui non mi pare proprio... No, che... lei poi gli ha detto all'onorevole Alfano che ha ricevuto, lei stesso, dottore, che ha ricevuto... diverse SMS, l'onorevole ha ricevuto adesso non confondiamoci, chi ha ricevuto chi? Che in radio c'erano gli SMS che erano negativi a quello che diceva non ho detto solo questo, cioè, per esempio un ultimo SMS che mi è arrivato: Sonia Alfano, un mito, sono innamorato. C'è chi si innamora anche della signora Alfano dopo quello che ha detto nei confronti della Ronzulli, è una cosa meravigliosa. Signora, grazie, la ringrazio. Lei si è innamorata pure lei dell'Alfano dopo questo intervento? No, guarda che neanche la conosco. Vabbè, ho capito, non è che uno si deve innamorare di forza. Mi interesso da poco tempo, da quando sento il suo radio. Com'è bella questa cosa, com'è bella. Una meraviglia assoluta, grazie signora. Interessante, comunque. Grazie signora Grazia. Parenzo. Signora Grazia, grazie. Diego da Udine, buonasera. Salve, voglio salutare anche David. trasparenza. Amico, è a sua disposizione. È a sua disposizione. Sì, no, io ho fatto un fan club di Scilipoti. Fan club di Scilipoti lo voglio fare pure io, assolutamente. L'ho aperto su Facebook. Ah, questo l'ho riconosciuto dalla voce. Si chiama Diego Volpe Pasini. Bravo, bravo David. Bravo. Ma qui si rivelano anche il cognome. Diego Volpe Pasini. È una cosa che ha lavorato con Vittorio Sgarbi anche. Esatto, bravissimo. Vabbè, ma scusi, ma signor Diego, lei la voce ho capito, ma lei è una sorta di turbinatore. Il numero uno, sì. Amico mio, mi dica, è un tono, no, Diego, che dice che affonda. No, sto scherzando. Comunque, signor Diego, come si chiama di cognome? Volpe Pasini. Volpe Pasini, che ha Volpe Pasini, scusi. Esatto. Ma io me lo ricordo benissimo. Lo ricordo benissimo. Vabbè, però lei vuole aprire ma facciamo un fan club, Volpe Pasini, facciamo un fan club a sostegno di Scilipoti, assolutamente. Sì, sono pronto, è aperto. Beh, quindi basta andare nella ricerca di Facebook. Ecco, ma lei l'ha fatto seriamente o per prenderlo in giro? No, lo faccio seriamente. Ecco, sarà una volta, ma non è un'aquila, diciamo, comunque. No, seriamente, perché per chi come me sosteneva una parte e sostiene una parte, Scilipoti ha impedito il principio possibile, potenziale del ribaltonismo. Cioè, adesso o si va alle elezioni o Berlusconi governa. No, ma ho capito. Diego, io ha fatto un favore straordinario. Però scusa Parenzo, adesso non è che ha detto secondo pazzesco. Il signor Volpe Pasini voglio un bene dell'anima, Diego Volpe, dopo dell'anima, però. No, ho capito, il signor Diego Volpe Pasini dal suo punto di vista non ha tutti i torti, dice io voglio siccome Berlusconi è stato eletto dal popolo, voglio che Berlusconi governi, e dunque se Scilipoti fa una mossa che consente a Berlusconi di governare chissà per quanto tempo, un giorno, due giorni, 10 mesi, un anno, 2 anni, eccetera eccetera, è il salvatore della patria. Dunque, sì, signor Diego Volpe Pasini, anche se Berlusconi non governasse più tra un mese, ormai il dato politico è che non si possono non fare le elezioni anticipate, o governa Berlusconi oppure si fanno le elezioni anticipate, cioè non potrà essere che chi ha perso le elezioni vada a governare, che mi sembra un principio di rispetto del popolo italiano. No, d'accordo, però d'accordo, lei si rende conto, Diego, che se il suo mito è diventato il signor Scilipoti, qui ci sono le regole che non funzionano, come dice. Mito è esagerato. Diciamo che lei fa un fan club su io lo voglio fare il fan club, però per ragioni diametralmente opposte alle sue, c'è cioè un fan club del personaggio Scilipoti, perché il personaggio è spettacolare. Da un lato o dall'altro è la stessa cosa. Io ho ascoltato con interesse e con attenzione ogni volta che è intervenuto da voi e credo di aver registrato tutti gli interventi di Scilipoti. Non ho capito nulla di quello che lui ha detto. Nulla. Tranne il fatto che vuole la stabilità. O che uno che vuole la stabilità del governo milita nell'Italia dei valori, c'è qualcosa che non torna, come dice Parezzo. Ci sono delle regole che non funzionano. Esatto. Nel suo essere assolutamente illogico, incapace di spiegare la sua posizione, la posizione ce l'aveva, ha fatto una scelta che chi la pensa come me condivide, e quindi lo ringraziamo. Questo è, da dovunque venga un voto, ben venga un voto. Caro Parenzo, questa è, io capisco, infatti Scilipoti è stato ringraziato da diversi deputati, no? Pacche sulle spalle l'altro giorno in Parlamento, così la politica italiana è fatta di queste piccole cose. Io facevo il tifo, ascoltavo. Lei faceva il tifo per Scilipoti. Io facevo il tifo per Berlusconi. L'ho capito. Ma dopodiché, le faccio un esempio: sono tifoso dell'Udinese Calcio. Ci sono alcuni giocatori che giocano bene, altri che giocano malissimo. Ma se l'Udinese vince su autorete del portiere avversario, lei gode come un pazzo. Lo capisco questo. Guardi. Se però diciamo la verità: questo portiere è un portiere di Pietro, che francamente sarà simpatico per strada, ma in Parlamento è inqualificabile. È ancora meglio. È ancora più divertente, è ancora più bello. Parenzo, tu hai un amico su Facebook, chiede l'amicizia pure a me, se già non me l'ha chiesta Volpe Pasini, me l'ha chiesta l'amicizia tu. No, gliela chiedo adesso. No, perché lei è spettacolare, perché no, mi sta spiegando un concetto fondamentale, però perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, caro, o dietro addirittura un muro, caro Parenzo. Cioè, chiunque abbia assistito alla discussione in Parlamento dell'altro giorno... Ma come si fa a sostenere che Berlusconi va bene aspetta, no, Berlusconi in assoluto. No, ho capito, però il problema... Anche un'aquila, magari, però Volpe ci ha chiarito una cosa. Ma Volpe è bravissimo, simpatico anche, figurati. No, ho capito, però Parenzo, fammi chiarire un concetto invece di interrompermi, abbi pazienza, sono arrabbiato. È una partita di calcio, Invece qui ti sbagli, perché l'altro giorno in Parlamento io conosco un sacco di persone moderate, persone di cui non sospetteresti mai, si sono messi di fronte all'una e mezza in Parlamento, si sono messi di fronte al televisore non per assistere ad un voto parlamentare qualunque, si sono messi di fronte al televisore come se ci fossero i rigori della finale di Champions League. Questo è il punto, il punto è questo. Cruciani, è giusto, Volpe, è giusto o no? Giustissimo, io guardi, ero in montagna con mia moglie e lei è andata fuori, io sono rimasto davanti al televisore fino al voto, non sono uscito, non sono andato a sciare, niente, perché? E sono gli unici 3 giorni di vacanza degli ultimi 6 mesi, per cui non è che faccio vacanza tutti i giorni, perché era spettacolo. Troppo bello. E vedere Fini costretto a dire che la Camera bocciava è stata una cosa... Che ha fatto dopo? Mi confessi, no? Se è una cosa... Insomma, mi dica cosa, quale paragone le può venire, cioè è stato uguale a ma come si chiama quella pornostar italiana che è morta, fantastica, che ha accompagnato i miei primi anni di Moana Pozzi, a 20 anni, 18 anni cominciare a vedere i film porno e il ricordo di Moana Pozzi, cioè era il massimo, è una cosa, ma è una perversione pazzesca, una cosa meravigliosa, vedere film costretto a andare via salutando con la coda fra le gambe questo spocchioso, arrogante, vuoto totale che perde. La sconfitta di Fini è stata meravigliosa, la vittoria di Berlusconi è stata una grande gioia. Cioè, lei cosa... no, questo è il massimo, Volpe. Secondo me. Questa no, Volpe, per Volpe. No, no, no, capito, però lei... come la può barattare questa scena? Posso dire... Cioè, in cambio di cosa? È come se... No, ma no, guarda, io me la sono registrata, questa rimane nel mio computer per sempre. Cioè, è una cosa che è in testa alle classifiche assolute. Cioè, sono 9 mesi che... Cioè, lei ha figli? Lei ha figli? Spocchioso, qui, là... Volpe, lei ha figli? Volpe, ha figli? Io ho figlio, sì, di 23 anni, sì. Ma non mi dica che la faccia di Fini che annuncia cose è come la nascita di suo figlio, no? La nascita di mio figlio va sopra ogni cosa, come la fede. E quello ci siamo. Sotto che c'è? Sotto ci sono diverse cose, c'è mia moglie, c'è l'affetto per mio padre e mia madre, c'è la mia azienda e c'è la faccia di Fini morto. Devo chiudere, voglio chiudere in orario stasera. Francesco da Grosseto, che è sta ambulanza? Francesco da Grosseto, Diego da Udine, l'abbiamo sentito, Sergio da Genova, tutti domani, Vincenzo da Bari, un altro chi è? Giorgio da Roma, Brigida da Milano, tutti domani, Renato Zero, mandatemi in conclusione. Parenzo, domani dove sei? Dove sei domani? Domani sono a Roma. Vabbè, poi vediamo. Ma arrivo se presto, poi... arrivo per tempo. Via, ciao, a domani. Ciao amico mio. Che mostro sei, tu pietà non hai, l'ambulanza va. La zanzara.